Il punto di Stefano Folli. Un passo dopo l'altro Berlusconi si prepara a lasciare il Parlamento e la giornata di oggi con il voto nella giunta del Senato definisce un passaggio quasi storico, benché non decisivo. Un'epoca sta finendo e di questo ci sono tutti gli indizi, compresa la conferma della condanna per la Mondadori con tutti i contraccolpi psicologici che ne derivano. Certo Berlusconi vorrà restare in campo, benché fuori dalle aule parlamentari, e come si dice vender cara la pelle. Lo farà capire nel suo straannunciato videomessaggio. C'è da augurarsi però che l'uomo, che gode tuttora di un seguito elettorale imponente, non perda di vista la realtà, la quale parla di un signore ormai anziano con pesanti problemi giudiziari sulle spalle. Più che un altro partito super personale usato come strumento populista, l'Italia avrebbe bisogno che la grande forza di quello che è stato l'arcipelago moderato berlusconiano e che continua a esistere, venga messa al servizio di un progetto politico, se possibile con una classe dirigente rinnovata e adeguata.